2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì sera 22-23, domenica tra le 13.05 dopo GR24 fino alle 13.30. Segni dei tempi che cambiano. L'azione della Apple entrerà dal 19 marzo fra i 30 titoli dell'indice Dow Jones, il più antico, il più prestigioso tra gli indici di borsa americani. È un po' il simbolo della grande industria americana, e il fatto che entri un'azienda che si occupa di software hardware, di elettronica di consumo, beh, è un po' il segno dei tempi che stanno cambiando. Apple, a proposito di questa azienda, terrà lunedì sera, ora italiana, un evento dedicato molto probabilmente all'orologio, all'Apple Watch, già presentato, già anticipato in autunno, ma si sapranno i dettagli, quanto costerà, quando uscirà sul mercato. Ammesso che non ci siano sorprese, eh? Allora, intanto, indiscrezioni abbastanza attendibili sostengono che in giugno Apple lancerà l'atteso servizio di musica in streaming che integra in iTunes la tecnologia Beats. Infatti molti si chiedevano, ma quando Apple introdurrà questa tecnologia? Allora, Beats è un'azienda che è stata acquistata per 3 miliardi di dollari all'inizio dello scorso anno. Da un po' di tempo offre un servizio di streaming e tutto ciò verrà integrato in iTunes. Dovrebbe essere una evoluzione di iTunes Radio, che per ora è disponibile solo negli Stati Uniti, un nuovo servizio per fare concorrenza a cose tipo Spotify. Sempre secondo queste indiscrezioni, Apple avrebbe già stabilito anche il prezzo, 7,99 dollari al mese, quindi 8 dollari, 2 in meno dei concorrenti, perché quasi tutti i servizi si sono posizionati sui 9,99, quindi 10 dollari al mese. Oppure, tradotto in euro, adesso ci va bene perché più o meno siamo vicini alla parità, ma quando l'euro contro dollaro era a 1,30, 1,40, la cosa a noi non piaceva molto. Tuttavia, questo di solito ci offre il mercato, cambi alla pari, quindi se una cosa costa 8 dollari viene poi ribaltata anche in 8 euro. Allora, questo servizio e quindi la relativa applicazione dovrebbe essere compatibile anche con Android. D'altronde iTunes è compatibile ad esempio con Windows, quindi ha un senso che questo nuovo servizio, pensato soprattutto per smartphone e tablet, avrà una compatibilità con Android, anche perché tra poco vedremo i dati di vendite nel mondo degli smartphone. Android ha una percentuale talmente elevata che non si può ignorare, siamo sull'80%. Un'altra notizia che merita un breve commento è la decisione della Corte Europea di Giustizia di bocciare l'IVA agevolata sugli ebook decisa da Francia e Lussemburgo, una decisione che potrebbe avere effetto anche sull'Italia. C'è una discussione in atto anche tra i giuristi. L'Italia che ha abbassato a fine anno l'IVA sugli ebook portandola al 4% dal 22%, cioè praticamente parificandola ai libri. Allora, al di là delle questioni fiscali, dei livelli di IVA applicata, quello che è interessante per 2024 per chi si occupa di tecnologia è la motivazione. La Corte Europea dice che l'ebook non è un libro, in base alle leggi attuali. Giudici rigorosamente applicano le leggi e dicono no, questo non è un libro. Perché? Mentre il libro di carta si può leggere, quindi è tutto, sia il contenuto che il contenitore è nel libro, per leggere l'ebook serve uno strumento come un lettore di ebook, un tablet o un computer, perché di fatto l'ebook è un software. E serve uno strumento, non è un libro, e quindi non si può applicare l'IVA, cioè le regole normative IVA tipiche del settore libri non possono essere applicate. Allora, è ovvio ed è evidente che un ebook sostituisce un libro, ma questa è la dimostrazione, e penso che questo sia interessante da sottolineare dal nostro punto di vista, è la dimostrazione come l'accelerazione della tecnologia impone a tutti gli stati, a tutti i governi, a tutti i parlamenti, in questo caso quello dell'Unione Europea, di rivedere molte delle leggi che regolano le nostre vite, perché non sono più adeguate al mondo di oggi. La tecnologia e anche il nostro stile di vita, le nostre abitudini vanno più veloci e molte, non dico tutte, ma molte di queste leggi devono essere adeguate. Notizie in breve della settimana con le nostre Digital News. Digital News. Da questa settimana Poste Italiane comincerà ad attivare hotspot Wi-Fi gratuiti negli uffici postali, non in tutti, Si parte dalle principali città e dentro l'anno saranno 900 le filiali coperte dal servizio. Poste Italiane ha una quantità di uffici postali incredibile, ne ha circa 14.000, quindi 900 non è una grandissima percentuale, però naturalmente saranno quelli più affollati, quelli dove si deve fare la coda. Che senso ha attivare un wifi dove non si fa coda negli uffici postali periferici, quelli piccoli di provincia? Le credenziali per accedere al servizio si riceveranno via SMS, così come fanno molti operatori Wi-Fi in questi ultimi anni, anche se sappiamo che oramai le leggi permettono di aprire i Wi-Fi, ma la responsabilità di quello che potrebbe accadere rimane sempre in carico a chi offre questo servizio. Quindi molti di fatto blindano il Wi-Fi e lo fanno utilizzare solamente dietro password, che appunto utilizzano spesso l'SMS, e quindi dietro a tutto ciò c'è un numero di telefono, una carta d'identità e qualcuno che ha già identificato quell'utente. Digital News. Google inizierà entro la fine del mese a lanciare un servizio di telefonia mobile negli Stati Uniti come operatore mobile virtuale. In una prima fase, il servizio sarà effettivamente dedicato a pochi utenti, perché potranno accedere alla rete solo coloro che hanno un Nexus 6, che è lo smartphone di Google. Digital News. Google rimane nel mirino delle istituzioni europee. Il Parlamento chiede alla Commissione di agire con urgenza per raggiungere risultati tangibili per porre fine al trattamento preferenziale di cui gode Google. Allora, da 4 anni la Commissione sta indagando su un possibile abuso di posizione dominante, ma finora non si è arrivati ad alcuna decisione o ad alcun accordo tra le parti. Ci hanno provato, ma ancora non c'è stata nessuna conclusione, quindi giustamente il Parlamento europeo dice: datevi una mossa, perché questa situazione non può continuare ancora a lungo. Digital News. Microsoft ha annunciato Office 2016 per Mac. La versione definitiva uscirà verso la fine dell'anno, ma gli utenti Mac possono già installare una versione di prova gratuita che dura 2 mesi. Digital News. Notizia curiosa, allora Amazon ha aperto un negozio online in Cina su Tmall.com, che è il marketplace di Alibaba. Tmall mette a disposizione di chi vuole vendere, quindi commercianti di qualsiasi parte del mondo, tutta l'infrastruttura necessaria per aprire un sito di e-commerce, compresi i sistemi di pagamento. Quindi può sembrare strano che Amazon, che ha il proprio negozio online in Cina, quindi ha il proprio Amazon China, ne apra un altro sul sito del principale concorrente, che è Alibaba. Però una delle spiegazioni potrebbe essere che molta gente va su Tmall, quindi se su un sito c'è molto traffico e molte opportunità di business, magari quella è un'opportunità da cogliere. Come dire, se io ho un negozio in una parte della città e vedo che la folla è tutta da un'altra parte della città in una piazza, beh, forse è meglio aprire un secondo negozio lì per fare un po' di business. Digital News. Ultima notizia riguarda HP, che ha acquisito per 2,7 miliardi di dollari Aruba Networks. È piuttosto famosa questa azienda, è una società che produce soluzioni di rete wireless dedicata alle imprese. Da non confondere l'Aruba Networks con l'Aruba italiana, che offre servizi di hosting e altri servizi. Stiamo parlando di un'azienda americana. Dunque, il governo ha approvato la strategia italiana per la banda larga e la crescita digitale, anzi per la banda ultra larga e la crescita digitale. Molti dei nostri ascoltatori mi hanno scritto questa settimana dicendo: ma vi occuperete sicuramente del piano banda larga del governo? Mica tanto. Allora, si tratta di una lunga lista di obiettivi da raggiungere nei prossimi anni, ne abbiamo parlato recentemente a 2024, ma attenzione, allora, nella riunione dello scorso martedì sono state approvate solo una serie di linee strategiche, quindi mancano i provvedimenti attuativi, ed è lì che si nascondono tutti i problemi possibili o tutte le buone notizie che vi daremo nelle prossime settimane. Quindi vedremo quello che entrerà in un provvedimento, che potrebbe essere un decreto oppure emendamenti ad altri provvedimenti che sono in Parlamento. Vedremo quale sarà il mezzo che verrà utilizzato per tradurre in provvedimenti concreti queste linee strategiche. che sono molto ambiziose, molto interessanti, perché si punta a coprire il territorio italiano raggiungendo al 2020 gli obiettivi dell'agenda digitale europea, che dicono almeno la metà della popolazione deve essere raggiunta da una velocità di 100 megabits al secondo e il restante almeno a 30 megabits. Direi che questi obiettivi andrebbero già aggiornati dell'agenda digitale europea. Comunque questi sono gli obiettivi, il piano va anche un po' oltre, ci sono molte considerazioni interessanti all'interno di questo piano. Una delle cose che mi sembrano positive è che in molti documenti il governo ha sempre parlato di fibra ottica. Sostanzialmente il senso è lo Stato finanzierà solo la tecnologia che è a prova di futuro e non quelle che potenziano il rame come il fiber to the cabinet, che ci mettono sicuramente al riparo per i prossimi pochi anni ma non sono sicuramente a prova di futuro, anche perché una delle caratteristiche della rete dei prossimi anni è che deve garantire prestazioni simmetriche. Questo è molto importante, estremamente importante, se no col cavolo che si fa il cloud, quindi download e upload alla stessa velocità, e questo ancora soprattutto nel mondo consumer gli operatori non lo stanno facendo come dovrebbero se vogliono sviluppare il cloud. Naturalmente upload e download alla stessa velocità lo si fa solo con la fibra ottica, soprattutto in futuro quando io magari ho bisogno di un 500 megabit o un gigabit fra non tantissimi anni. E non pensate che se uno va a vedere la prima DSL è di una quindicina di anni fa, quindi in 15 anni siamo già arrivati a parlare di 100 megabit e già oggi in alcune città italiane ci sono offerte per 300 megabit sulla fibra ottica. Quindi in pochi anni, visto che la velocità della tecnologia è una velocità che accelera sempre di più, beh, io direi che nel giro di pochissimi anni si raggiungeranno velocità del gigabit, tant'è che molti operatori che fanno strumenti per le connessioni e anche molti stati parlano di un gigabit a persona per il 2020. E noi siamo qui a parlare degli obiettivi dell'agenda digitale. Adesso parliamo di Mobile World Congress Barcellona. Questa settimana si è tenuta la fiera più importante del mondo della telefonia mobile. Fino almeno al 2018 Barcellona ospiterà questa fiera, poi chissà se la GSM Association, che è l'associazione che raccoglie tutte le grandi industrie delle telecomunicazioni, continuerà a scegliere l'Europa. Allora, la GSM Association ha sede in Irlanda perché il centro di tutta l'evoluzione tecnologica della telefonia è nata in Europa, quindi storicamente in Europa. Però chi lo sa se questa fiera poi migrerà negli Stati Uniti o in Asia, perché se uno va a guardare i numeri, di fatto l'Europa conta sempre meno in questo grande mercato. Dunque, a proposito di velocità, si comincia a parlare di 5G. Tutti i principali produttori di tecnologie di rete stanno già sperimentando questo standard che diventerà concreto attorno al 2020. Quindi se parliamo di 5G, parliamo di velocità che cozzano un po' con i 30, i 100 megabit, parliamo di velocità molto più elevate. Vedremo poi come si evolverà questo standard. Comunque sostanzialmente abbiamo 5 anni davanti per parlarne, ma si tratta di maggiore velocità, minore latenza, ma tutto ciò necessiterà di una rete di antenne molto più fitte rispetto a quelle attuali, ma di questo avremo occasione di riparlarne. Per quanto riguarda gli smartphone, poi parliamo anche di realtà virtuale, parliamo di wearable devices, parliamo anche di sistemi operativi e di produttori. Iniziamo dagli annunci, non sono stati tantissimi, nessuna grandissima novità. Ha iniziato domenica HTC, che ha presentato il nuovo One M9, l'evoluzione del precedente smartphone. Poi Microsoft lunedì ha lanciato due nuovi Lumia da 5 e 5,7 pollici, prezzi piuttosto competitivi, quindi tecnologia di fatto che diventa alla portata di tutti a prezzi sempre più bassi. Ma gli annunci più interessanti sono arrivati da Samsung, che ha presentato domenica due smartphone che arriveranno anche in Italia dal 10 di aprile, gli attesissimi Galaxy S6 e S6 Edge, mentre l'S6 è, diciamo, pesantemente ispirato all'iPhone, sia come design, ci sono dei particolari incredibili che fanno appunto ricordare l'iPhone, non solo appunto come design ma anche come materiali, perché ad esempio è stato scelto il metallo, è stata abbandonata la plastica, è stata fatta una scelta radicale da Samsung, che ha sempre puntato sulla batteria che si può rimpiazzare, che si può togliere, cambiare, e invece in questo S6 la batteria è come quella dell'iPhone, non si tocca. L'S6 Edge, molto interessante, è un prodotto dal design sicuramente originale, quindi questo ha fatto piacere a tutti i commentatori. Una soluzione già vista con il Note Edge, sempre di Samsung, comunque fatto molto bene, con materiali preziosi, molto complesso da costruire, dicono. Ha un display con bordi smussati, quindi il vetro dello schermo si flette sui bordi. Dicevo, un design sicuramente molto, molto interessante. Dicono gli esperti che sarà complicato e molto costoso da produrre, costerà un sacco di soldi, quindi vedremo poi quando uscirà sul mercato quale sarà la reazione, ma sicuramente di questo S6 Edge ce ne saranno pochi, proprio perché è complicato produrlo. Una delle specialità, una delle specializzazioni di Apple, e Tim Cook, l'attuale capo di Apple, è stato uno degli artefici, è sempre stata la capacità di produrre cose complicate in milioni di pezzi. Abbiamo incontrato Carolina Milanesi, che è responsabile delle ricerche a Kantar World Panel, per parlare di queste novità, ma soprattutto del fatto che ancora oggi, nonostante le poche novità dal punto di vista smartphone, questo mercato è ancora molto molto frizzante. Sì, sicuramente adesso diciamo l'essere mobile è diventato parte della nostra vita, e quello che secondo me è interessante vedere è come Mobile World Congress, da un punto di vista di annunci, lo vedi che si è distaccato da quello che era l'iniziale, no? Il punto iniziale, che era la tecnologia, si chiamava GSM una volta, no? Poi è diventato 3GSM quando il 3G si è sviluppato, e adesso si è distaccato dalla tecnologia per sé. E anche qui, anche stamattina per esempio alla conferenza della Microsoft, dove parli di un ecosistema di devices, un ecosistema di offerte che diventa sempre più importante per il consumatore, non puoi più essere isolato. E abbiamo visto per esempio anche domenica una compagnia come HTC, che ha cominciato dai telefonini, che si allarga a fare altre cose, che fa wearables, che fa realtà virtuale, perché fare il telefono da solo non basta più. Partiamo dagli smartphone tuttavia, e poi parliamo anche di realtà virtuale. C'è una fascia di mercato che è la prossima fascia di mercato da conquistare, cioè quella dei telefoni di almeno dal punto di vista del prezzo medio-basso. Se guardiamo al mondo, se guardiamo soprattutto all'Asia, ai mercati che contano oramai, perché l'Europa conta ben poco o comunque conta sempre meno, quella è la fascia di mercato da conquistare? Ma la fascia da conquistare è anche la fascia che secondo me i venditori stanno guardando adesso come la parte del mercato che forse riescono ancora a vincere. La parte alta del mercato è di Samsung e di Apple, e riuscire a togliere utenti a quella parte lì richiede molti soldi nel marketing e nella pubblicità, e richiede anche veramente una differenziazione di prodotti che secondo me molte aziende adesso non possono fare. E quindi ci lanciamo sulla fascia dove i consumatori sono un pochino meno leali, seguono un po' di più la moda, e a livello di prodotti ovviamente come prezzo sei più basso. Però non è necessariamente più semplice, perché nonostante le cose che ho detto sono vere, ti ritrovi tutti che cercano di conquistarsi questa parte del mercato. Quindi la competizione, specialmente nel campo di Android, dove poi alla fine io competo esattamente con le stesse armi del mio concorrente, non è così semplice. Tu hai citato Android, al Mobile World Congress non esiste Apple, ma esiste invece il concorrente principale di Android e di Apple, anche se ha una quota di mercato molto, molto bassa per il momento, che è Microsoft. Microsoft tuttavia è una grande azienda, ha grandi capitali, grande possibilità di investimento. Che cosa vedi nell'immediato futuro di Microsoft, anche in vista dell'arrivo di Windows 10? Sì, secondo me molto verrà rivelato quando appunto a Build ad aprile la loro conferenza per gli sviluppatori avremo un pochino più notizie. Tanti si aspettavano di vedere qui a Mobile World Congress un prodotto di fascia alta, perché comunque c'è ancora questa convinzione che devi competere, anche se non ce la fai, però devi provare, no? a fare concorrenza ad Apple, a Samsung. Ma il tempo, la tempistica di lanciarlo in questo periodo non ha senso, perché comunque il sistema operativo verrà lanciato nell'estate e quindi ci aspettiamo quello. Ma poi perché fare qualcosa nella fascia alta del mercato richiede applicazioni. Cioè è la fascia di mercato dove i consumatori sono molto più esigenti, usano il loro telefono in maniera molto più complessa, se vuoi, e ricca, che non la fascia medio-bassa. Quindi Microsoft sta facendo, secondo me, la cosa giusta di cercare di creare volumi più grandi andando nella fascia bassa del mercato, per arrivare poi a convincere gli sviluppatori che vale la pena fare un investimento e sviluppare per Microsoft. Poi vedremo se Microsoft riuscirà a conquistare quote di mercato grazie a queste innovazioni e partendo dalla fascia medio-bassa. A proposito di questa fascia, i grandi player sono i cinesi? Sì, vediamo senz'altro i cinesi come Huawei, anche qui hanno avuto una presenza abbastanza ricca, non soltanto per il telefono ma anche per wearables. ZTE secondo me sta ancora facendo un pochino fatica a livello internazionale veramente a farsi credere importante come gli altri, e poi tutti guardano a Xiaomi, che è ancora una realtà molto locale, se vuoi, però senz'altro che fa vedere delle opportunità. Però perché questi hanno incominciato a muoversi in questo campo non vuol dire che, per esempio, abbiamo visto qua una Sony, che ha ovviamente un nome molto più importante, molto più conosciuto, che provano anche loro a andare più nella fascia media che non nella fascia alta, perché hanno in un certo modo lo stesso problema che ha Windows con Lumia. Loro hanno un nome, ma nel quote di mercato dei telefoni hanno ancora al di fuori del Giappone veramente poco market share, e quindi devono provare a anche loro aumentare i volumi, e la fascia media è quello che devono fare. Senza contare che Sony potrebbe finire in vendita presto, perché insomma sappiamo Sony che di fatto, non ufficialmente, ma di fatto potrebbe mettere in vendita questa divisione mobile dell'azienda. Come hanno fatto con quella dei PC. Tra poco continueremo, parleremo di produttori come Samsung, che ha presentato questi nuovi Galaxy 6 e 6 Edge. Parleremo anche di numeri, perché in settimana sono usciti alcuni numeri che ci raccontano di come va il mercato della telefonia mobile, e poi anche di realtà virtuale, di neutralità della rete, di roaming. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo tra un minuto. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, potete seguirci anche su Twitter o su Facebook, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024. Ultimi dati che riguardano la telefonia mobile, i produttori, quindi i terminali di telefoni mobili, cioè i telefonini, cioè gli smartphone. Allora, nell'ultimo trimestre dell'anno che cosa è successo? Che cosa è successo? Interessante. Secondo gli ultimi dati diffusi da Gartner, Apple ha superato Samsung con il 20,4%, Samsung al 19,9%. Poi dietro, un po' a distanza, c'è Lenovo al 6,6%. Ricordiamo che Lenovo ha comprato Motorola, quindi in questo 6,6% c'è anche Motorola. Huawei 5,7%, Xiaomi 5,1%. Ricordiamo che Huawei e Xiaomi hanno una forza molto importante in Cina, Xiaomi è numero uno in Cina, quindi già quel mercato ti fa salire in classifica. Altra cosa interessante di questo mercato, c'è una frammentazione incredibile, il 42% è di altri produttori che hanno quote di mercato inferiori al 5%. come ad esempio LG, che è un grande produttore, ma se uno poi si espande a livello mondiale, chiaramente i pesi cambiano. Un altro dato interessante riguarda i sistemi operativi. Allora, in questo caso invece la frammentazione non c'è, perché l'80,7% dei terminali in giro per il mondo, e stiamo parlando di più di un miliardo di terminali, hanno Android. iOS è al 15,4%, stiamo parlando di dati del 2014, Windows al 2,8%, quindi ne hanno di strada da fare, quelli di Microsoft, BlackBerry allo 0,6% e gli altri allo 0,5%, quindi non esistono quasi. Stiamo parlando comunque di quasi 6 milioni di pezzi, gli altri, però insomma è quasi insignificante a confronto di Android. Se guardiamo al mercato italiano, un dato interessante relativo ai sistemi operativi ce lo fornisce Kantar World Panel, che fa una fotografia sui principali mercati. Allora, in Italia a gennaio Android è sceso al 66,6%, iOS è salito al 18,3%, Windows cala al 13,2%. In Italia la forza di Windows è sempre relativamente alta rispetto ad altri mercati. Nel nostro paese gli altri sistemi operativi sono relegati all'1,9% del mercato. Allora, a proposito di Kantar World Panel, è con noi Carolina Milanesi, che è responsabile della ricerca mondiale, vive e lavora in Silicon Valley e da lì governa tutta la ricerca che viene fatta da Kantar in giro per il mondo. Abbiamo parlato con lei di Samsung, come si sta comportando questa azienda, soprattutto dopo questo annuncio che di fatto cambia un po' la strategia di Samsung, prodotti decisamente nuovi sotto tanti punti di vista, alcune scelte radicali che abbandonano un po' il passato e che guardano molto all'iPhone di Apple. Ma ho visto una Samsung che ha provato a fare un pochino, se vuoi, quello che Apple ha fatto con l'iPhone 6 e il 6 Plus, mettendo gli schermi più grandi. Samsung l'ha fatto con un'attenzione al design che prima non c'era. Passare dalla plastica al vetro per la maggior parte dei consumatori sarà la cosa più importante. Poi arrivano anche ovviamente dei miglioramenti sulla fotocamera, piuttosto che la qualità dello schermo, ma dal punto di vista del design hai adesso due devices nella parte alta, il Galaxy S6 e l'S6 Edge, che veramente si distinguono dal passato. E questa è ancora la cosa che un consumatore che deve decidere di fare l'upgrade del telefono, quindi di cambiare il telefono che ha già, la parte del design è ancora quella più semplice per riuscire a vincere il consumatore. La tecnologia, il software richiede molto più investimento da un livello di marketing per cercare di dare qual è il valore al consumatore, ma tu cambi il colore del telefono o il materiale, è una cosa molto ovvia. E questo è quello che hanno fatto, hanno cercato anche di semplificare un pochino le cose a livello di esperienza. E poi, come fanno sempre, secondo me, con questa ossessione al loro competitore più grande che Apple, hai avuto la Samsung Pay per arrivare appunto a testa a testa con quelli di Cupertino. Allora, abbiamo detto che non abbiamo visto, ma insomma lo sappiamo già da un po' di anni ormai, delle grandissime novità a livello hardware, cioè fotocamere migliori, batterie migliori, tante caratteristiche che diventano sempre più performanti, però grandissime novità non ce ne sono. Ecco, invece sicuramente si possono fare alcune cose sul fronte del software. E come tu dicevi prima, entra anche in questo mondo la realtà virtuale, che è un nuovo trend, non so che successo avrà, non vorrei che ripetesse l'insuccesso, almeno fino ad oggi, dei wearable devices. Che cosa sta succedendo? Sì, la realtà virtuale è sul mercato da tantissimi anni e non ha mai avuto una grande fortuna, perché comunque vieni sempre visto un pochino come un mostro a due teste, no? Perché queste cose che ti fanno questi occhialoni che devi mettere per cercare. Adesso ovviamente rispetto a tanti anni fa e tutte le applicazioni, c'è un altro, diciamo, l'infrastruttura, se vuoi, che serve per un certo successo, c'è. Però secondo me c'è anche una spinta dal punto di vista dei venditori a cercare di fare qualcosa di diverso, cioè wearables ci stanno impiegando tanto, hanno già visto che i cinesi sono già arrivati, quindi c'è già un problema di prezzo e di margini e come fare a differenziare, quindi Oculus, che ha incominciato ad avere successo, si sono buttati un po' tutti, no? Hai visto prima Samsung, poi hai visto Microsoft e qui al congresso HTC. Sì, diciamo che stiamo parlando di occhiali che ospitano al proprio interno uno smartphone, e quindi esatto, lo smartphone diventa utile anche per essere il visore della realtà virtuale. Esatto, esatto, ma in realtà il consumatore non capisce ancora nulla di queste cose. Abbiamo appena fatto un'indagine sia in America che in Inghilterra, chiedendo a un pannello di consumatori di 10.000 consumatori in Inghilterra e 20.000 consumatori in America. Il 50% in tutti e due i mercati non ha mai sentito parlare della realtà virtuale. Il 24, tra il 24 e il 30% tra i due mercati non è interessato perché non capisce perché. Le persone che sono interessate hanno meno di 16 anni, che quindi saranno anche interessati, ma non hanno i soldi per comprarli. Se tu dovessi rispondere alla domanda a che cosa mi serve la realtà virtuale, che cosa risponderesti? A scappare la tua realtà reale. Intervista integrale solo nella nostra versione podcast. Adesso continuiamo a parlare di realtà virtuale. Durante il Mobile World Congress Samsung ha presentato il nuovo Gear VR, dove VR sta per Virtual Reality, l'Innovator Edition, in collaborazione con Oculus, e HTC ha lanciato un visore che si chiama Vive, realizzato con Valve. Ricordiamo che Oculus è sicuramente il nome più importante in questo mega trend della realtà virtuale. Oculus acquistata da Facebook. Ci sono al lavoro centinaia di tecnici per realizzare un visore che chissà quando uscirà sul mercato. È stato annunciato più volte ma ancora non si vede sul mercato. C'è molta attesa. Altri ci stanno provando e stanno tentando la loro strada. Diciamo che ci sono due strade fondamentalmente. Se sei un produttore di smartphone, il produttore di smartphone utilizza lo smartphone, il display, lo schermo dello smartphone per inserirlo dentro queste maschere che hanno sostanzialmente delle lenti che servono per creare una sensazione di immersione, cioè espandono l'immagine dello schermo del telefono su tutto il nostro campo visivo. Quindi abbiamo davanti a noi di fatto il telefonino messo in orizzontale, davanti ci sono queste lenti che espandono l'immagine su tutto il nostro campo visivo. L'altra strada più sofisticata, sicuramente che dà risultati migliori, è un visore tutto integrato con potenza di calcolo. La potenza di calcolo nel caso dello smartphone è già integrata nello smartphone. Invece la seconda strada, quella di Oculus, è creare uno strumento che ti metti in testa, hai questo visore molto grande, tu guardi dentro questo visore e ti sembra di essere in un altro mondo, letteralmente parlando. Il problema della definizione di questi display è molto molto importante. Questo è uno dei motivi per cui negli ultimi tempi si sente dire il display del telefonino tal dei tali ha una risoluzione 50% superiore al precedente. Per vedere quello che noi facciamo tutti i giorni con lo smartphone serve assolutamente nulla, perché questa definizione non quasi quasi non ce ne accorgiamo nemmeno. Ma se la mettiamo dentro questi visori ha un senso questo aumento di definizione, anche se poi questa espansione in tutto il campo visivo la riduce sempre di più, quindi quando uno poi guarda dentro a questi occhialoni vede ancora con una definizione che non è completamente soddisfacente. Però il mondo della realtà virtuale promette talmente tante cose che molti stanno sperimentando, stanno producendo, ci sono tante idee. Una di queste la sta sviluppando Applix, che è una società italiana specializzata in realtà virtuale già da un po' di tempo. Ha fatto già delle bellissime applicazioni che ci fanno immergere in una Roma antica, si chiamano proprio Virtual History. Abbiamo parlato dei nuovi progetti con Claudio Somazzi, che è l'amministratore delegato di Applix. Ma oggi, anche derivando dall'esperienza che abbiamo fatto in passato su opere con multimediali per iPad, per tablet e smartphone, che era Virtual History, abbiamo cercato di andare un po' più in là. L'occasione della mostra di Leonardo a Palazzo Reale, che verrà inaugurata a fine aprile con l'inizio dell'Expo, ci consente sostanzialmente di portare sul mercato una nuova opera multimediale fruibile in mobilità, quindi su tutti i device, smartphone e tablet, dedicata a Leonardo, un Leonardo a 360 gradi, quindi con tutte le varie facce artistiche di Leonardo, però in una nuova logica. Qual è la logica? La logica è Being Leonardo, cioè sarà la prima applicazione, come dicevi tu, anche se un po' riduttivo e limitante come termine, diciamo la prima opera multimediale su tablet e smartphone, che sostanzialmente farà vivere la vita di Leonardo attraverso gli occhi di Leonardo stesso. Sì, voi parlate di biografia immersiva. Esattamente, l'idea è proprio di portare l'utente, in questo caso, a fare una visita nel tempo, come se fosse una macchina del tempo vera e propria, attraverso realtà immersive, quindi calandosi nella bottega del Verrocchio, quindi avendo degli ambienti a 720, quindi non solo a destra e a sinistra a 360 gradi, ma in realtà guardando sopra sotto, che è classicamente un'esperienza che Apple ha segnalato essere molto innovativa e firmata da Applix già nel 2010, quindi un ambiente immersivo. Lo si può fare con smartphone e soprattutto tablet, perché magari lo smartphone ha uno schermo troppo piccolo, sia Android che iOS, ma qui siamo ancora nel mondo 2D, giusto? Sì, l'occasione è stata ghiotta per iniziare una sperimentazione. Non abbiamo un dato certo, però pensiamo con ragionevole tranquillità di portare sul mercato la prima applicazione al mondo fruibile, come dicevi tu, su tablet, su smartphone, ovviamente più limitata, ma soprattutto attraverso questi nuovi visori Oculus, VGear di Samsung, sostanzialmente, che consentono, mettendoci questi occhiali che visti da fuori sembriamo tutti un po' marziani, ma consentono di fare proprio una visita immersiva, quindi sostanzialmente essere proiettati fisicamente all'interno di un ambiente che tendenzialmente non esiste, perché stiamo parlando del 1450 a salire. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Tra poco parleremo di neutralità della rete e anche di roaming, se ne sta discutendo a livello europeo. Stiamo parlando di realtà virtuale, questo è un tema molto nuovo, anche se si parla da tantissimi anni di realtà virtuale, sta tornando in auge questo tema. È sicuramente uno dei settori dove vedremo la realtà virtuale espandersi sarà quello dei videogiochi, ma ci potrebbero essere altre applicazioni. Torniamo alla idea, al progetto che stanno realizzando ad Applix con Claudio Somazzi. Tecnicamente l'hardware, molti l'avranno visto in fotografia, sono degli enormi occhialoni che ci fanno sembrare delle api giganti. In realtà viene attaccato a questi occhiali un device, in questo caso un device Android Samsung, e grazie alla possibilità di girare gli occhi, perché poi inquadra gli occhi saranno sostanzialmente come se fosse un mouse, quindi l'occhio va a guardare e si fissa su un punto dello schermo, che è uno schermo a 360 gradi, e a quel punto verremo proiettati all'interno di sezioni. In realtà non saranno delle sezioni come siamo abituati a vedere sui tablet o su smartphone, ma saranno dei veri e propri ambienti, che potrà essere una bottega, potrà essere un campo di battaglia, e a questo punto noi attiveremo sostanzialmente tutti i nostri cinque sensi, perché sentiremo i rumori, vedremo quello che sta succedendo, quasi toccheremo da un punto di vista virtuale, però assicuro che l'esperienza è veramente notevole, che ora era limitata ai grandi parchi divertimento americani dove si facevano queste esperienze 3D. Finalmente adesso la tecnologia ci consente di fare questa sperimentazione, insomma. Tu sei stato anche uno dei primi a sperimentarla, mi sembra che sia stata particolarmente efficace. Il problema attuale di questi strumenti, che hanno ancora una definizione limitata, questo è ad oggi ancora un problema? Ad oggi è un problema, ma non lo è nel momento in cui sappiamo che la tecnologia di fatto viaggia molto più velocemente. Oggi si parla per esempio di televisori 4K e i contenuti, però non ci sono ancora tutti i contenuti. Quindi l'aspetto di tecnologia è, se vuoi, quello più sotto controllo e meno preoccupante. È più preoccupante, quindi bisogna tenere più sotto controllo la produzione di contenuti che sfruttano questo tipo di tecnologia. Quindi oggi noi utilizziamo uno smartphone Samsung, che può essere uno smartphone anche di altre case, non c'è quel tipo di problema, però il display è ovviamente un display pensato per chi deve guardare delle mail, deve vedere un video, e quindi è pensato per una fruizione più tradizionale. Nel momento in cui aziende come le nostre riusciranno a portare sul mercato dei prodotti che richiederanno un'evoluzione anche della risoluzione dei display degli smartphone, a questo punto credo che le case produttrici saranno solo ben contente. Probabilmente ce l'hanno già in casa. Noi non abbiamo visto alcuni prototipi, per esempio al recente Mobile World Congress di Barcellona. Ci sono già dei prototipi 4K, per esempio la Dell ne ha appena rilasciato uno, che però rimangono ancora nell'ambito di la nicchia della nicchia, perché non c'è un campo di applicazione oggi. Nel momento in cui arriveranno questi contenuti, quindi verranno fruiti da entità culturali, i musei, immaginiamo un museo fra 10 anni, probabilmente alcuni pezzi di questo museo verranno vissuti in maniera virtuale e sicuramente l'hardware si adeguerà aumentando la risoluzione. Magari anche prima di 10 anni. Sì, ovviamente la speranza di aziende come le nostre è che si vada più veloce. Poi ci sono ovviamente, soprattutto quando parli di musei, parli di strutture che hanno tanta storia, anche tanta burocrazia alle spalle, non è così semplice. Certo è che alcuni musei a livello internazionale stanno andando molto più velocemente del previsto, quindi bene come notizia, nell'evolvere l'esperienza di visita, soprattutto perché pochi sanno che tanto pezzi dei musei sono in casse, sono nei magazzini. Molti pezzi di quei musei magari sono in giro, in prestito in altri musei, quindi sicuramente l'esigenza di ampliare l'esperienza del visitatore c'è. Poi la velocità con la quale questa era messa a terra, poi ovviamente non dipende solo da matti come noi che progettano e inventano cose strane, o dalle case produttrici di hardware. C'è anche la struttura, l'istituzione che deve un po' adeguarsi. Secondo voi la realtà virtuale a cosa potrebbe servire, oltre che ad esempio, come abbiamo spiegato e raccontato, alla visita di una mostra particolare, cioè che ne so, una bottega dove Leonardo lavorava, viveva, eccetera? Ma i campi di applicazione sono veramente tanti. C'è un campo di applicazione sul mondo del lavoro, quindi immaginatevi oggi un meccanico che una volta utilizzava delle chiavi inglesi, eccetera, e oggi magari ha di fronte, aprendo il cofano di una macchina moderna, quasi una centrale elettronica dove ci sono 1000 congegni, eccetera. Ecco, lì in questo mondo probabilmente il libretto di uso e manutenzione è limitante, semplicemente perché magari non è, ci sono tante cose che non possono essere spiegate a parole. A quel punto poter mettere degli occhiali tridimensionali che, guardando un pezzo della vettura, ti danno in tempo reale video, audio, parte testuale, aiutano a fare meglio il proprio lavoro. Tra l'altro, quello a cui faceva riferimento Claudio Somazzi è un mix tra realtà virtuale e realtà aumentata. Se noi guardiamo un oggetto vero e sopra quell'oggetto un visore ci restituisce maggiori informazioni, quella realtà aumentata. Poi possiamo pensare ad altre tantissime applicazioni che riguardano la realtà virtuale. Pensate i videogiochi, pensate il turismo, pensate, che ne so, il settore immobiliare. Potremmo vedere la casa in costruzione già finita. Sicuramente ci saranno ancora molti, siamo proprio all'inizio di questo trend. Anzi, fateci sapere se è una cosa che vi interessa o poco, perché potremmo anche decidere di riparlarne in modo più approfondito. Ci sono tantissime implicazioni, abbiamo accennato poco fa quello della risoluzione, cioè della definizione dello schermo, perché ancora oggi questa realtà virtuale ha ancora immagini meno nitide rispetto a quelle a cui già siamo abituati con l'alta definizione, con i display retina, con tutti questi schermi bellissimi. E poi ci sono anche problemi legati al movimento nostro, problemi, dicono gli esperti, di cinestesia. Se siamo fermi fisicamente, seduti, abbiamo il visore e nella realtà virtuale che stiamo guardando c'è un'azione in movimento, questo potrebbe anche crearci nausea. L'inverso di quello che succede quando ad esempio siamo in nave, dove ci guardiamo attorno, tutto è fermo, ma in realtà fuori dalla nave tutto si muove e di fatto la nave si muove, per quello che ci viene la nausea. Insomma, i problemi sono tantissimi, ma è un mondo molto interessante. Ci sono investimenti molto pesanti, tantissime aziende stanno investendo un sacco di soldi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di neutralità della rete. Se ne torna a parlare in Europa dopo la decisione dell'Agenzia Federale Americana che regola le telecomunicazioni. Negli Stati Uniti si è deciso che la neutralità della rete è un principio contro il quale non si può andare. Tutto il traffico sulla rete internet deve essere trattato allo stesso modo, tutti i contenuti hanno pari diritti sulla rete internet. In Europa come stanno le cose? Ne abbiamo parlato con Innocenzo Genna, che è un esperto di regolamentazione relativa al settore delle telecomunicazioni a Bruxelles. Perché il Consiglio, cioè i governi degli Stati membri europei, è arrivato a un accordo relativo alla regolamentazione della neutrality. Questo accordo era partito da una precedente proposta della Commissione di un anno e mezzo fa ed era già stata emendata dal Parlamento. I governi hanno trovato un accordo, ma adesso devono sottoporre di nuovo questo draft al Parlamento europeo, che aveva fatto degli emendamenti un po' differenti, e quindi dovrà trovare un accordo tra da un lato il Parlamento, dall'altro il Consiglio, cioè i governi. La distanza tra le due posizioni del Consiglio europeo e del Parlamento europeo è piuttosto ampia. Partiamo dalla posizione del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo consente di dividere internet in due modelli: un internet tradizionale, cosiddetto best effort, dove non ci può essere discriminazione e dove gli utenti hanno diritto di ricevere o fare quello che vogliono, insomma, dove possono avere accesso a qualsiasi servizio, e dall'altro i cosiddetti servizi specializzati, che sono dei servizi a qualità garantita, dove questa libertà non esiste più perché l'operatore di accesso internet decide che cosa ci può passare, e questo viene chiesto soprattutto per servizi tipo il video streaming. Va detto che questi servizi specializzati sono stati proibiti da Obama in America, appunto perché vengono visti come un modo con cui gli operatori di rete di internet possono del tutto limitare la libertà degli utenti di avere quello che vogliono. Il Parlamento aveva voluto non tanto proibire questi servizi specializzati, ma limitarli fortemente. Il Consiglio invece alla fine ha detto: li ammettiamo, però in qualche modo bisognerà garantire che ciascun operatore di accesso internet garantisca un minimo di accesso all'internet tradizionale. Quindi dovrà sempre coesistere assieme ai servizi specializzati. È un equilibrio non molto facile, perché visto che internet comunque è una, la rete è unica, l'accesso che noi abbiamo a casa, in ufficio, in azienda, insomma è unico, il rischio è che se io garantisco priorità a un servizio video, magari lo faccio a scapito di tutto il resto. Questa è un po' la critica che viene fatta, giusto? Sì, è esattamente questo. La differenza di approccio tra Europa e America è forse questa: in America non c'è concorrenza nelle reti, perché per una serie di motivi gli utenti americani possono ricevere a casa un solo operatore broadband, quindi è chiaro che in una situazione di monopolio l'operatore broadband diventa veramente una sorta di passaggio fondamentale. Sì, che può fare quello che vuole. Questo è un passaggio interessante e importante, perché nel regno della concorrenza e del liberismo, e invece il territorio è stato di fatto nel corso degli anni, per vari motivi, suddiviso in aree dove c'è effettivamente un solo operatore. Al massimo c'è la concorrenza della TV via cavo, quindi puoi scegliere tra fare l'abbonamento a internet dalla AT&T ad esempio, oppure un operatore di televisivo, ma insomma Però si sa che l'operatore cable è quello che normalmente ha interesse a bloccare i servizi video concorrenti, quindi è sempre quello meno neutrale per antonomasia. Sì, sì, sì. Invece in Europa si dice c'è concorrenza, quindi lasciamo liberi gli operatori. Diciamo, in Europa c'è maggiore concorrenza perché abbiamo una regolamentazione per cui sulla rete di Telecom, ad esempio, possono passare anche altri operatori, Fast, Wind, Vodafone, MCLink, eccetera. Quindi è possibile, secondo il legislatore europeo, che qualora un operatore di rete cerchi di attentare pesantemente alla neutralità della rete, un utente semplicemente cambi ISP e vada a prendersi il servizio a qualcun altro. Ovviamente questo dipenderà da quello che è il grado vero di concorrenza in ogni Stato europeo e dalla fattibilità di questo passaggio di cambio di ISP, che può avvenire in teoria, ma magari in pratica non è sempre così facile cambiare dal giorno al domani il proprio operatore broadband. Sì, sì, in effetti le autorità nazionali si sono spesso lamentate delle difficoltà che gli operatori in un modo o nell'altro mettono in campo per passare da o per non far passare gli utenti da un operatore all'altro. Questo effettivamente è uno dei problemi. Quindi quanta probabilità c'è che passi la versione del Consiglio oppure no? Cioè che prospettiva abbiamo? Dunque, il Parlamento ha già mandato una lettera firmata da numerosi deputati al Consiglio dicendo che non sono contenti, perché è evidente che vi è una distanza tra le due posizioni. Io penso che comunque il Consiglio abbia scelto una posizione un po' di basso profilo semplicemente per avere più margine negoziale quando andrà a parlare con il Parlamento. Quindi è possibile che provino a incontrarsi a metà strada in qualche punto. Che tempi ci sono? La procedura è abbastanza complessa, però ipotizzando che il Parlamento con una maggioranza importante si opponga alla proposta del Consiglio e che quindi poi ci sia un'ulteriore fase di emendamenti fino a una cosiddetta fase di conciliazione, direi almeno 6 mesi. Ah, quindi abbiamo tempo per riparlarne, diciamo. Sì, ma in tutto questo può accadere di tutto, perché la Commissione europea potrebbe persino reiterare la proposta se ritiene che non sia soddisfacente. Il Parlamento e il Consiglio potrebbero anche ritirarsi o denunciare del tutto la proposta in corso, quindi potrebbe persino cadere tutto. Quindi vedremo. Che cosa c'entra tutto ciò con il roaming, quindi con le tariffe che noi paghiamo quando siamo all'estero col nostro telefonino? Dunque, c'entra nel senso che fa parte dello stesso pacchetto legislativo, ma si tratta comunque di una questione diversa, non di net neutrality, ma di quanto appunto gli utenti mobili pagano quando vanno all'estero col telefonino. La nuova proposta del Consiglio ugualmente è un po' di basso profilo e abbastanza distante da quello che aveva proposto il Parlamento nell'aprile scorso. Anche qui, secondo me, per ragioni negoziali. Quello che propone il Consiglio è che a partire dal giugno 2016 ogni utente europeo che si reca all'estero avrà diritto a un minimo di traffico esente da roaming. E il Consiglio in questo momento propone, come base negoziale, che si tratti di un minimo di 7 giorni all'anno e ogni giorno un massimo di 5 minuti di telefonata, 5 sms e 5 megabyte, che è pochissimo sia in termini di giorni, perché molta gente ormai sta all'estero più di una settimana, e anche come consumo giornaliero, perché 5 megabyte è quello che normalmente io consumo per accendere il telefonino e basta. Sì. È una base negoziale, evidentemente. Certo, di fatto le due cose è vero che sono diverse, però c'è chi le ha messe in relazione dicendo cari operatori di telecomunicazioni, vi concedo qualcosa sul tema della neutralità della rete, però sul roaming dovete cedere qualche cosa ai cittadini. Certo è che così appare una vittoria un po' sbilanciata, perché ai cittadini verrebbe indietro molto poco, cioè non è che si ripone, mi sembra anche una cosa un po' populista, no? Sì, diciamo, in questo momento vi è una sorta di spirale mediatica per cui ogni istituzione che si occupa di questa questione la presenta come la fine del roaming, In verità non è mai la fine del roaming, è al massimo la proposta di concedere ad ogni utente un minimo di traffico all'estero esente da roaming, che viene calcolato in maniera diversa, con meccanismi diversi, ma non è mai la fine del roaming. Il roaming, in base a questa proposta, non finirà neanche nel 2018, perché questo è stato erroneamente riportato da molti organi di stampa. In verità nel 2018 la Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta, o quantomeno uno studio, sullo stato del mercato, in particolare sui costi di accesso alle reti mobili, e a quel punto fare il punto su quello che bisogna ancora fare per eliminare il roaming del tutto. Ma quindi sarà semplicemente un momento in cui ci si incontrerà per discutere della situazione. E questo è il parere di Innocenzo Genna, che si occupa di regolamentazione nel settore delle TLC, è un esperto di regolamentazione nel settore delle TLC a Bruxelles. Dunque, solo per i nostri amici che scaricano il podcast, una considerazione sul mercato dei terminali e dei produttori di smartphone. Prima ho citato le quote di mercato dell'ultimo trimestre dell'anno, nel quale Apple ha superato Samsung. Allora, se noi andiamo a vedere però le quote di mercato per tutto il 2014, sempre secondo quelle pubblicate da Gartner in settimana, Samsung ha il 24,7%, quindi nell'ultimo trimestre è scivolato sotto al 20%, mentre nell'anno mantiene la leadership 24,7%. Samsung è un'azienda che vende 307 milioni di smartphone in un anno. Apple è seconda in classifica con una quota del 15,4%, ha venduto 191 milioni di smartphone durante l'anno. E poi c'è Lenovo, che come dicevamo possiede anche il marchio Motorola, 6,5%, Huawei 5,5%, LG Electronics 4,6%. Gli altri sono al 43,3%. Noterete l'assenza in questa top 5 del 2014 di Xiaomi. Xiaomi è un successo incredibile, un fenomeno incredibile in Cina, è cresciuto moltissimo negli ultimi mesi e quindi è per questo motivo che, se uno va a considerare tutto l'anno, non è in classifica, ma se uno considera solo l'ultimo trimestre, visto i risultati degli ultimi tempi, sta crescendo moltissimo. Bene, tutto per questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa versione podcast. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, vi ricordo anche che 2024 va in da una settimana, va in versione flash, l'abbiamo chiamata 2024 bit, alle 18.30 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Se volete mandarci dei suggerimenti sui temi da coprire, parliamo prevalentemente di innovazione, di tecnologia, soprattutto con un risvolto interessante e utile anche per le aziende, non solo per i consumatori, cercando di spaziare su tutti i temi che riguardano appunto l'innovazione e la tecnologia. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds in.